La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta in podcast qui dagli studi di Milano della Radio. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Molte le mail che sono arrivate sul tema di cui parliamo puntualmente oggi hanno iniziato ad arrivare da ieri, ho risposto a tutti fino a pochi minuti fa. L'argomento della puntata, visto che potete intervenire, fatelo se ritenete, darci la vostra opinione che è sempre ben accetta, e il numero di telefono lo ricordo 800 24 00 24, per le sms 349 238 6666. Il tema è quello della ipotesi, solo di ipotesi stiamo parlando, di un intervento sulle pensioni di reversibilità. Allora, è una polemica che ha avvampata nel giro di 24 ore, neanche 48 ad essere precisi, poco più di 24 ore, ed è una polemica che nasce da una circostanza, quella di un disegno di legge delega che il Consiglio dei Ministri ha approvato per il riordino degli istituti italiani di assistenza. Riordino perché viviamo in una foresta babelica di sostegni al reddito a fine di assistenza, perché a quelli nazionali si aggiungono quelli di entità diversa a seconda delle finanze comunali e della discrezione delle diverse giunte, dei diversi governi e dei comuni, appunto dei comuni nel nostro paese. La finalità di questo riordino è quello di razionalizzare, per evitare iniquità, visto che a diverse soglie di reddito possono corrispondere assenza di trattamenti o presenza di trattamenti nel nostro paese, per la ragione che vi ho detto, e anche volta al fine di reperire risorse aggiuntive, perché il Fondo Nazionale per la Lotta alla Povertà, per il quale sono stati stanziati in legge di stabilità 2016 600 milioni, deve salire fino a 1 miliardo. Tenete conto che noi siamo un paese deficitario da questo punto di vista, e la povertà, come sapete, nella caduta del reddito pro capita in questi anni è diventato un problema ancora più rilevante nel nostro paese. Allora, poiché in questa bozza di disegno di legge si parla di razionalizzazione degli istituti di assistenza e nella relazione di accompagnamento si faceva un accenno anche all'ipotesi di intervenire per razionalizzare le pensioni di reversibilità, cioè quella ai superstiti, è successo un pandemonio. Cioè ieri, nel giro di poche ore, appartenenti al PD stesso, a tutte le opposizioni, la Lega, i 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, eccetera, eccetera, si è levato un concerto di durissime reprimende e attacchi al governo. I toni erano quelli: volete affamare le vedove, eccetera eccetera eccetera. Ripeto, non stiamo parlando di una proposta concreta, stiamo parlando di un accenno che c'era nella relazione di accompagnamento di questo disegno di legge, che comunque è volto a un buon fine, reperire risorse per la lotta alla povertà, e a un fine di equità, cioè razionalizzare la geografia complessa e diversificata, e quindi non equa, del sostegno a chi ha basso reddito nel nostro paese. Allora, conta poco come la pensi io, anche se su questo tema torno da anni scrivendo sul Messaggero e sul Panorama, l'ho rifatto puntualmente anche oggi, e conta poco che io ritenga che per il futuro sarebbe molto ragionevole rivedere i criteri attuali che disciplinano l'istituto delle pensioni di reversibilità, per una serie di ragioni, poi ci tornerò sopra. Quello che mi sembra più rilevante per accertare i fatti, innanzitutto, rispetto a queste polemiche durissime che hanno costretto poi nel pomeriggio di ieri il ministro Poletti a dire: ma guardate che qui non c'è una proposta, ma di che state parlando? Perché usate questi toni che ottengono solo l'effetto normalmente di allarmare la gente, visto che qui non si tratta di ritoccare o di tagliare i trattamenti in essere, ma di aprire una discussione sulla razionalizzazione di tutti i sostegni al reddito, questa che i giornali hanno ripreso come se fosse una vera e propria smentita. Mi sono detto: la prima cosa da fare è sentire alla fonte come stanno le cose, poi vi dirò come la penso io. Io penso che ci siano ragioni, ripeto, solide per intervenire sui criteri della reversibilità attuale, ma abbiamo deciso apposta, e lo ringrazio, di sentire il responsabile nazionale economia del PD, il professor Filippo Taddei per farci innanzitutto spiegare alla fonte che cosa il governo davvero pensava di fare e come mai è insorto una canizza, perdonatemi il termine, di queste proporzioni. Va bene che la politica italiana ci abitua a canizze quotidiane, però qui stiamo parlando ovviamente di cose che riguardano milioni di persone, perché io vi devo richiamare che allo stato attuale delle cose noi abbiamo 4,3 milioni, quasi 4,4 milioni di trattamenti di reversibilità in corso nel nostro paese. Aumentano mediamente, negli ultimi due anni sono aumentate di 189.000 unità nel 2014 e di 180.000 unità nel 2015. Il totale della spesa di queste nuove pensioni aggiuntive, nuovi trattamenti, quelli di reversibilità, che sono circa un terzo dei nuovi assegni che maturano negli ultimi anni ogni anno, e quest'anno dovrebbe superare i 40 miliardi di euro. Ecco, questi sono i numeri. Allora, è con noi Filippo Taddei, appunto responsabile nazionale economia del PD, e quindi la prima domanda che gli faccio è: cosa davvero aveva intenzione di fare il governo e come mai è successo ciò che è successo ieri? Quello che vuol fare il governo è fare una delega a povertà. Cioè avere una delega per uniformare quegli strumenti di contrasto alla povertà che oggi sono enormemente frammentati, come ricordavi nella tua introduzione. In particolare il disegno di legge è veramente cristallino, parla di uniformare, introdurre uno strumento unico nazionale, però se introduci uno strumento unico nazionale devi affrontare la frammentarietà e allora dici: benissimo, interveniamo razionalizzando quello che esistono, cioè le prestazioni di natura assistenziale, nonché, dice il disegno di legge, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale. Ma perché lo fai? Lo fai perché vuoi in realtà che quelle risorse aggiuntive che la legge di stabilità ha già messo a disposizione vadano effettivamente verso i più bisognosi innanzitutto. Cioè in questo castello affastellato di tante iniziative, di tanti strumenti di sostegno, nasce l'idea di dire: abbiamo 600 milioni in più, assicuriamoci che questi 600 milioni vadano effettivamente a chi ne ha più bisogno, ma sono risorse in più, che non levano nulla a chi già ha qualcosa. Da cui quindi arriviamo alla seconda domanda: perché è partita questa discussione sulla reversibilità? Io non lo so, mai, non c'è in nessuna, la parola reversibilità non compare in nessuna riga del disegno di legge. No, infatti non c'è nel testo. E quindi di che cosa stiamo parlando? Se non di un atto, cioè è quasi lapalissiano, è quello che stiamo facendo è riconoscere che la povertà è cresciuta molto, che ci sono risorse in più e che tu non le vuoi sprecare, e per non sprecarle devi riconoscere che vuoi considerare quale sia l'effettiva situazione economica di tutti i nuclei destinatari. Ora io vorrei fare un esempio molto concreto per capire quanto è importante, per capire la situazione economica effettiva delle persone, considerare non solo gli strumenti di sostegno, le prestazioni di natura assistenziale, ma anche al limite quelle previdenziali. Facciamo due esempi molto chiari. Mettiamo una famiglia in cui c'è un solo genitore e due bambini. Quella famiglia ha un reddito basso, è povera e merita sostegno, no? Perché quell'unico genitore magari ha un assegno di disoccupazione, un reddito da lavoro troppo basso, non ce la fa ad andare avanti e allora lo vuoi sostenere. Immaginiamoci che c'è un'altra famiglia di fianco a quella, in cui non c'è un genitore ma c'è un nonno che si prende cura dei due nipoti perché i genitori non ci sono più, sono andati via, qualunque sia la ragione. Ora, se io non avessi scritto nel disegno di legge, se il governo non avesse scritto che nel disegno di legge la razionalizzazione deve considerare non solo la natura assistenziale dei trattamenti, ma anche quella previdenziale, nella seconda famiglia c'è una pensione che vale 10.000 euro e io l'avrei dovuta ignorare perché mi dovevo concentrare solamente sugli strumenti di natura assistenziale, ignorando quelli previdenziali, arrivando quindi all'assurdo che trattavo in maniera uguale due famiglie molto diverse. Da una parte una famiglia in oggettivo stato di bisogno, dall'altra parte una famiglia che invece quel bisogno non aveva. Ora, siccome i soldi ci sono aggiuntivi, ma non vogliamo essere sicuri che vengano spesi bene, io mi voglio assicurare che quando vado a razionalizzare, quando vado a capire quali sono i nuclei, il gruppo di persone che ne hanno più bisogno, colga effettivamente quelli che hanno più bisogno. In tutto questo, io veramente vorrei che rassicurare tutti, ma dicendo veramente una cosa da palestiana, dov'è che qualcuno, chi nel governo, chi nel Partito Democratico ha detto l'obiettivo del governo è finanziare questo intervento attraverso un taglio delle pensioni di reversibilità. Se uno mi trova una dichiarazione di questo tipo, io sono disposto anche a smentirla, ma non c'è, non esiste. Ed è stato un dibattito veramente strano, che peraltro, guardate, a me non dispiace che se ne parli di una cosa che non esiste, il taglio delle pensioni di reversibilità, non esiste. A me dispiace che, parlando di una cosa che non esiste, parliamo di quello che esiste, cioè la prima volta in cui tu hai un impegno del governo e delle risorse già definite in legge di stabilità destinate ad affrontare una priorità nazionale che è la lotta alla povertà, in particolare la lotta alla povertà dei nuclei familiari in cui sono coinvolti, di cui fanno parte dei minori. È tutto qua. Io non c'è nulla da smentire, perché non c'è nemmeno un punto di partenza da smentire. Non c'è nemmeno un punto di partenza. I fatti, guardate, siccome io non sono certo sospettabile di fare favori a nessuno, però i fatti sono incontrovertibilmente quelli di cui sta parlando il professor Filippo Taddei. Il mio mestiere è quello di farvi riflettere sul fatto che i fatti siano questo. Naturalmente, terza domanda a Filippo Taddei, poiché a intervenire sono stati, finché l'opposizione, vabbè, uno dice l'opposizione ne approfitta di tutto, d'accordo, fa il suo mestiere, però ieri effettivamente a, tra virgolette, insorgere, come si dice in questo orrido gergo giornalistico che tramuta tutto in battaglie, sono stati anche diversi esponenti e anche di rilievo del PD. Su quotidiani nazionali oggi ci sono interviste, per esempio sulla Stampa, di Cesare Damiano, presidente di Commissione Loro, che dice no, qui non si può, non si deve, eccetera eccetera, e tutti parlano come di una volontà esplicita, allora o quantomeno implicita, perché è ovvio che l'onorevole Damiano sa perfettamente che nel testo non c'è l'ipotesi su cui tutti sono insorti, però è come se l'onorevole Damiano dicesse se ne parla. Allora, domanda, questo equivoco, che però da parte di personalità politiche di fine cervello e non nate ieri, evidentemente non nasce dal non saper leggere un testo. Che cosa ci può voler dire? Da una parte in Parlamento ci sono giacenti solo proposte per aumentare ulteriormente i trattamenti di reversibilità. Dall'altra, se affrontiamo la questione, sia pur che non c'è nel testo, la mia opinione è che nel quadro dell'organizzazione della lotta alla povertà ha un senso rivedere dei criteri per il futuro, sto dicendo, non sto parlando dei 4,3 milioni che attualmente hanno l'assegno, però ha un senso, vediamo come la pensa Taddei, introdurre alcuni criteri per il futuro rispetto a un istituto, quello della reversibilità, che nel nostro ordinamento è nato quando c'era una famiglia con il capo famiglia maschio che lavorava, di solito la moglie non lavorava, non partecipava al mercato del lavoro, accudiva la famiglia, e quindi i criteri di attribuzione attuali, e io dico non solo nell'ordine dei consanguinei, cioè il coniuge superstite, i figli, la percentuale che va al coniuge che cresce fino al 100% dell'assegno in presenza di numero di figli a carico fino a 26 anni, ma che poi lo estende in caso di assenza di questi superstiti in senso ascensionale ai genitori oppure fino ai nipoti, e che attualmente prevede, io faccio sempre questo esempio perché a me sembra irragionevole, e che attualmente prevede la reversibilità a chi si è separato tra i coniugi ha un assegno di mantenimento, ok, la reversibilità a chi si è divorziato ha un assegno divorzile, ok, però se il coniuge che poi scompare si è risposato, a quel punto la reversibilità va in parte al secondo coniuge e in parte al primo. Se anche il primo, dopo aver percepito la reversibilità, si risposa, gli diamo due annualità della reversibilità. Capite che, come dimostra questo esempio, poiché noi abbiamo nel frattempo cambiato la natura ordinamentale sia della famiglia con separazione, divorzio, addirittura il divorzio breve pochi mesi fa, 6 mesi per la separazione consensuale, 12 mesi per quella giudiziale. Adesso introduciamo, io sono favorevole, le unioni civili e anche qui reversibilità. Siccome nell'ordinamento abbiamo comunque modificato la solidità tutelata dalla legge dei vincoli riconosciuti dalla legge tra coppie, che cosa è avvenuto? È avvenuto che in giurisprudenza, nel frattempo, negli ultimi 10 anni, per esempio, la somma media degli assegni di mantenimento di separazione e anche quelli divorzili, pensate, è scesa da un livello 100 di 12 anni fa a un livello 40. Allora, avrebbe anche un senso legalmente, di fronte a modifiche ai rapporti riconosciuti dalla legge tra coppie, fare un ragionamento che vincoli questo pilastro prudenziale, cioè la reversibilità, nel quadro di una razionalizzazione degli strumenti, come diceva Taddei, cioè ancoriamoli a un criterio di reddito familiare che impedisca trattamenti diversi e non equi in tutto il paese, a seconda magari della finanza del comune in cui casualmente vive una famiglia piuttosto che altrove. Non ha anche senso un ragionamento così, Taddei, secondo lei? Ma vorrei dire, Giannino, lei parla di un progetto ambizioso di riforma dell'assistenza in generale, e noi possiamo naturalmente sederci qui e farlo. Io voglio dire che questo provvedimento è un po' meno ambizioso, magari, di quanto vorrebbe lei, il che non vuol dire che non è importante. Ah no, certo, le risorse ci sono, questo è un fatto. È determinato a puntare sulla povertà. Ora, se lei mi dice cambiamo l'assistenza, il rischio vita, la compartecipazione dei coniugi, riflettiamo su queste cose al futuro, e le dico, guardi, è un discorso interessante, facciamolo quando volete. Però di fatto lei dice dobbiamo partire da altre emergenze. Ma io qui sto facendo un'altra cosa, sì. Io mi sto concentrando su quella fetta di italiani che sono poveri, che sono in condizioni di povertà assoluta, a cui conferisco risorse aggiuntive, risorse che prima non c'erano. Ora, non sono probabilmente sufficienti a risolvere il problema della povertà in assoluto in Italia, però sono importanti, e allora io ho un obbligo se dentro di me, che l'obbligo è, devo essere sicuro che ciascuno di questi euro, dei 600 milioni in quest'anno, del miliardo dell'anno prossimo, vada alle persone la cui situazione economica effettiva sia la più debole, fragile possibile. È accertata in maniera uniforme. No, è accertata in maniera uniforme. Allora io le dico, guardi, noi abbiamo uno strumento che è stato fatto, stato introdotto attraverso anche il lavoro, l'ottimo lavoro della senatrice Guerra quando era viceministro del lavoro. Abbiamo uno strumento per accertare la situazione economica equivalente. Io le dico, il governo si impegna a dire, utilizziamo quello strumento per capire effettivamente, per non commettere l'errore che descrivevo prima, non trattare la famiglia in cui c'è il nonno che si prende cura dei figli, ma magari è una pensione di 10.000 euro, come se fosse un nullatenente, perché non è un nullatenente. No, mentre invece trattiamo la famiglia di fianco che vive con 400 euro di segno di disoccupazione come fosse la stessa cosa. Non li tratteremo allo stesso modo, identifichiamo le condizioni di bisogno e concentriamoci su queste. Noi ci affrontiamo la povertà, non stiamo affrontando tutti i bisogni di assistenza sociale del paese, però ci affrontiamo questo. Il vero tratto distintivo è che prima la povertà, che è un problema strutturale, si è diventato permanente, si affrontava in maniera sperimentale, con strumenti sperimentali, città per città, cose ridicole. Invece no, noi abbiamo adesso una legge delega che dice no, guardate, dobbiamo farlo attraverso una misura nazionale, cioè che va universale sul territorio nazionale, che però prende in considerazione quali sono tutti gli strumenti esistenti. E siccome sono una miriade e sono, ahimè, per la maggior parte mal distribuiti, razionalizziamoli, consideriamoli, valutiamo le condizioni di bisogno e utilizziamo il nostro strumento, a questo punto, universale, nazionale, permanente e non sperimentale, per affrontare l'emergenza nazionale della povertà. Vogliamo parlare poi del resto, della flessibilità in uscita, della riforma delle pensioni? Lo facciamo con piacere, ma lo facciamo in un'altra occasione. Adesso stiamo parlando di povertà. Io so che lei ci deve lasciare, quindi non prendo altro tempo, però ci tenevo che i nostri ascoltatori avessero una voce impegnativa di interpretazione autentica. I fatti sono così, però i testi parlano chiaro, quindi non è che dovete dire Taddei fa il suo mestiere, cioè vende fumo. No, i testi sono lì e i testi dicono che è avvenuta una polemica per diversi interessi che esistono, diverse famiglie politiche, che però non ha a che fare con quello che nel testo c'è. Grazie a Taddei, torniamo tra un minuto, però le vostre telefonate vedo che sono tante. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:50, primi 15 secondi. Avete sentito il professor Filippo Taddei, responsabile economico del PD. Nel testo sulla legge delega che il Consiglio dei Ministri manda in Parlamento per il potenziamento della lotta alla povertà, ciò che ha fatto esplodere la polemica, vogliono toccare la pensione di reversibilità, non c'è. e ve l'ho fatto dire da lui, ma dopo aver controllato i testi non c'è. Quello che è evidente è che il nervosismo della politica, che vuole solo pensare ai prepensionamenti ulteriori, e vedrete nella prossima legge di stabilità, faccio una scommessa, ad aumentare tutti i trattamenti previdenziali in corso, anche senza guardare i criteri, secondo me molto discutibili, dell'attuale reversibilità, ha dato alla politica l'occasione di mettere su un bel teatrone, per così dire. Capisco, non giudico, ognuno ha i suoi interessi di consenso, elettorali e così via. Naturalmente si dimentica, se si parla di previdenza, che poi, siccome viviamo in un sistema di ripartizione, i costi stanno tutti sulle spalle di giovani generazioni che A, non avranno le pensioni retributive dei padri, B, non hanno la continuità contributiva perché o sono precari o sono disoccupati, e sono quelli in un sistema di ripartizione che pagano le pensioni retributive ai padri per molti anni ancora, e sono quelli che pagano le pensioni di reversibilità anche a chi, secondo me, in un'Italia così impoverita bisognerebbe, ci sarebbero tutti gli estremi per giudicare criteri diversi per il futuro. Sentiamo però come la pensate voi. Io naturalmente sono in minoranza su questi temi. Iniziamo con Simone da Bari. Simone, prego. Buonasera. Innanzitutto, ascoltando, mi è venuta in mente una riflessione a proposito dei politici. Ma io vorrei tanto che per un diritto di equità tutte le leggi che loro emettono nei riguardi dei cittadini fossero in primo luogo applicate a loro stessi. Non mi pare che sia così. Ai vitalizi. Prima regola. Credo che questo sia nella Costituzione, dove dice che i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge. Come ha ragione, le do ragione. Poi, per l'argomento in questione della pensione di reversibilità, sono direttamente in causa nell'ambito pensione, in quanto ho 67 anni e ho appena maturato i requisiti. Ho cominciato a riflettere sul sistema pensionistico. Veniamo alla famiglia. Se ormai un principio legale acclarato, esempio in caso di divorzio, è che anche il coniuge che non ha mai lavorato ha contribuito alla creazione di quello che è il patrimonio familiare, e quindi ovviamente ha partecipato indirettamente al versamento dei contributi previdenziali, mi sembra normale che abbia diritto a ricevere poi indietro questi contributi previdenziali, visto che non sono ad persona ma sono alla famiglia. E sono contrario anche al discorso di darli percentuale, 70%, 50%, no. Secondo me il coniuge, che comunque ne ha diritto, fermi tutti i discorsi economici, sì, patrimoniali, eccetera, ma ha diritto al 100%, sono i soldi suoi, della famiglia, che devono essere restituiti. Simone, io non sono soldi dei politici o dello Stato. No, sono, e il problema invece cioè, è proprio... comunque sono perfettamente sono d'accordo dello sul Stato. Sistema contributivo. Simone, no, eh? su questo, Simone, c'è un equivoco di fondo in cui cadete quasi tutti. Voi siete convinti che con il passaggio al contributivo, i contributi che voi versate col sistema contributivo, cioè a differenza di quello retributivo pre-riforma Dini non collegati alla pensione agli ultimi stipendi, sia in un montante che resta lì e il cui avvaloramento nel tempo, moltiplicato per i coefficienti che sono quelli dell'attesa di vita e quelli del PIL anno per anno, sia intoccabile. Non è così, perché il nostro sistema è rimasto a ripartizione. Quindi, coi contributi che avete pagato nella vostra vita, sono state pagate le pensioni in corso in quegli anni là. Ecco, questo che, al quale io sono contrario, io vorrei un sistema contributivo vero, ma il sistema a ripartizione non è un sistema contributivo vero. Quindi il diritto ad avere il 100% nel nostro ordinamento di quello che avete versato, per così dire, moltiplicato, non c'è. E questo dato di fatto ve lo dimenticate tutti quando invocate il contratto violato dallo Stato, purtroppo. Renzo da Vicenza. Sì, buongiorno Giannino, io la chiamavo perché volevo tenere presente una cosa, che lei ha detto che non ci sono riferimenti nel testo di disegno legge Lerga a proposito. Nel testo del disegno legge? Ecco, però nella nota tecnica di accompagnamento sì, mi risulta di sì. L'ho detto all'inizio, e nella nota di accompagnamento, quella che si chiama la relazione, si citano tra gli esempi, poiché anche Taddei l'ha sentito, ha detto bisogna mettere insieme sistemi di pura assistenza, comunali e statali, con eventuali criteri di reddito, per identificare bene il reddito e misurare gli interventi della povertà, anche di sua provenienza previdenziale. Certo, è così, ma nel testo non c'è scritto. Ecco. Previdenziali e le pensioni di reversibilità sono un istituto previdenziale. Sì, però non di qui a dire che la delega... L'equivoco. Il problema, quello che volevo segnalare sì, io è che se il testo fosse stato scritto meglio, in maniera più precisa, facendo o non riferimento nella nota tecnica alla pensione di reversibilità, o non facendo riferimento alla nota previdenziale nell'articolo 1, probabilmente tutta questa discussione non sarebbe neanche nata. Non so se è d'accordo con me. Guardi, no, per il semplice fatto che allora, intanto, se adottiamo questa ottica di avere una metrica comune per misurare i nuovi interventi oltre la povertà, il primo pilastro previdenziale che entra in corso per misurare i redditi bassi, perché di questo stiamo parlando, è l'assegno al minimo, integrato al minimo, di poco più di 500 euro. La media degli assegni, la media, perché poi ce ne sono di elevati e anche di elevatissimi, di reversibilità è intorno a 670-680 euro. Eppure, guarda caso, nessuno ha fatto, è saltato su dicendo vogliono tagliare l'assegno al minimo. Quindi la questione per metterci anche gli strumenti previdenziali che possono concorrere a un reddito, a una soglia di reddito minimo, identifica gli strumenti previdenziali che sono quelli al minimo, appunto. Eppure non c'è stato il casino sugli assegni al minimo. Ancora Giovanni da Varese, rapidissimo, Giovanni. Sì, volevo solamente dire che il calcolo ISE per i comuni viene già fatto per capire se ha... Verissimo, naturalmente però a seconda della finanza dei comuni i sostegni sono diversi e l'ammissione dei benefici è diversa, perché inevitabilmente nei piccoli comuni la finanza che c'è nei grandi non c'è, e si tratta di superare proprio questo, perché altrimenti siamo un paese a macchia di leopardo e la lotta alla povertà è meglio non farla con questi criteri, ma con criteri uniformi. Molte altre telefonate, qui ci serve una trasmissione di un'ora almeno. Mi dispiace e ringrazio e saluto tutti. Appuntamento alle 8:15 di mattina con Alessandro Milan. Attenti a noi due.